da tentare un bel coraggio e tutt'osa sperar un forte amore. Thank you. Alma fedele, ad esperto sublime, ad imellore. chi vive ancor, se ne altro all'opre, orme non più venuse. Parla, chi sei, chi te qui trasse, e donde consacrire goppiene a noi qui giungi? Arresti, o che udice in libertà lo segua, ella con noi soggiorni, o se permetti che in vita ella si rieda, ben tosto scorgerai quanto fatale del tuo scettro al volersi a questo dono, e siederai senza vassalli in trono. Ne speri, ne creda, che a lui si conceda il veder la sua bella mai più. Ma che vada, ne speri, ne creda, che a lui si conceda il veder la sua bella mai più. Che a lui si conceda il veder la sua bella mai più. Che vada, ne speri, ne creda, che a lui si conceda il veder la sua bella mai più. Sono un prudente, parla il suo cieco amore. che pietà non senta, ma contro il tuo desio parla del regno mio l'austera regge. La legge in tuo potir, virtus irrara, un militar che la s'ascolti. Questo è il giorno che di Giove immortal sacri natali dalla terra e dal cielo oggi si onora. Per lui, se non per me, se non per quella che siede al fianco tuo, sposa di legno, oggi del rigore obbedia, e questo anche tu aggiungi qua suo mondo.

piacere anche nel nostro impero. Orfeo ritorni da voi, là, tra i viventi, e seco, assolta dalla legge fatale, ragga per gloria di questo nobil dì, la sua Euridice. Odi un giorno immortale, gloria felice. Voi, qui di amor figo, fa bella scorta il lume, lieti godete, io libertà vi dono, oggi mirarli il sol tornare vi dice. Odi un giorno immortale, gloria felice. Si festeggia ancora fra noi. Se a ritorno tutto il giorno, tutto è pien di caudio e il mondo. Si festeggia ancora fra noi. Si festeggia ancora fra noi. Thank you. Thank you. Espera, dimmi, speri forse che in fede uguale, e uguale amor ti servi? Lo spero, e quando ancora la mia speme mi inganni, è mio piacere questo nobile inganno. Perduta se piange tanto Fido, e così amante la sua Euridice Orfeo, perché non viene a dar gli occhi suoi nella vista di lei, perché non segue l'orme del suo bel piede, perché non tenta il terribil sentier di questi dì. Potrei per esser certa del suo amor, di sua fede, del caro sposo mio bramar la morte, no, viva il cuore e lieto viva, basta per mio contento. Tanto in Orfeo non puote amor, ma tanto ben puote in Aristeo. Poi che ti vidi cader quel vago fior, cui falce ingrata volga bellezza e vita, senza di te vi parve rimorso e tormento il viver di. Rede di un cuore amante, sfogo inutile il pianto, e per mostrarti alta costanza mia, volli seguirti. Sempre forte chi vedava, sempre forte chi ti vedava, nella resta, nella resta al seguir la mago oggetto sempre forte chi venava nella resta al continuo. Hey!

troppo violetta. Tu che spargi queste prime faville a me nel cuore, me tu guida e consola col tuo consiglio e col tuo voto, o amore. Thank you. Oh,